Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. Prima di venire dal capitano, Don Mariano aveva reclamato il barbiere. E un carabiniere gli aveva dato una passata di rasoio che era stata un vero refrigerio. E si passava ora la mano sulla faccia godendo di non trovare la barba che, aspra come carta vetrata, gli aveva dato negli ultimi 2 giorni più fastidio di quanto gliene dessero i pensieri. Il capitano disse «Si accomodi» e Don Mariano sedette, guardandolo fermamente attraverso le palpebre grevi. Uno sguardo inespressivo che subito si spense in un movimento della testa, come se le pupille fossero andate in su e in dentro per uno scatto meccanico. Il capitano gli chiese se avesse mai avuto rapporti con Calogero di Bella, detto Parrinieddo. Don Mariano domandò cosa intendesse per rapporti, semplice conoscenza, amicizia, interessi in comune. «Scelga lei», disse il capitano. «La verità è una sola, e non c'è niente da scegliere, semplice conoscenza». «E che opinione aveva del Di Bella?» «Mi pareva giudizioso, qualche piccolo sbaglio, da ragazzo, ma ora mi pareva camminasse dritto». «Lavorava?» «Lei lo sa meglio di me. Voglio sentirlo da lei». «Se parliamo di lavorare con la zappa, che era il lavoro a cui suo padre lo aveva avviato, Di Bella lavorava quanto lavoriamo lei ed io. Forse lavorava con la testa». «E che lavoro, secondo lei, faceva con la testa?» «Non lo so e non lo voglio sapere». «Perché?» «Perché non mi interessa. Di Bella faceva la sua strada, io la mia». «Perché ne parla al passato?» «Perché l'hanno ammazzato. L'ho saputo un'ora prima che lei mi mandasse i carabinieri in casa». «I carabinieri in casa, in effetti, è stato il Di Bella a mandarglieli». «Lei mi vuole confondere la testa». «No, e le faccio vedere quello che ha scritto il Di Bella poche ore prima di morire». Gli mostrò la copia fotografica della lettera. Don Mariano la prese e la guardò allontanandola per tutta la lunghezza del braccio. Disse che vedeva bene le cose lontane. «Che gliene pare?» domandò il capitano. «Niente», disse Don Mariano restituendogli la fotografia. «Niente?» «Proprio il niente che è niente». «Non le sembra un'accusa?» «Accusa», disse meravigliato Don Mariano. «A me non pare niente. Un pezzo di carta col mio nome sopra». «C'è anche un altro nome?» «Già, Rosario Pizzuco». «Lo conosce?» «Conosco tutto il paese». «Ma Pizzuco in particolare?» «Non in particolare, come tanti». «Non ha rapporti di affari con Pizzuco?» «Mi permetta una domanda. Lei che affari crede che io faccia?» «Tanti e diversi». «Non faccio affari. Vivo di rendita». «Che rendita?» «Terre». «Quanti ettari ne possiede?» 22 salme e facciamo 90 ettari». «Danno una buona rendita?» «Non sempre, secondo l'annata». «In media che reddito può dare un ettaro delle sue terre?» «Una buona parte della mia terra io la lascio germa, per il pascolo. Non posso dire dunque quanto mi rende per ettaro quella lasciata germa, posso dire quanto mi rendono le pecore. A tagliare di grasso 500.000, il resto in grano, fave, mandorle, olio, secondo le annate». «Quanti ettari sarebbero quelli coltivati?» 50-60 ettari». «E allora posso dirle io quanto rendono per ettaro?» «Non meno di 1.000.000». «Lei sta scherzando». «Eh no, è lei che sta scherzando. Perché mi dice di non avere, oltre le terre, altre fonti di reddito, che non ha mano in affari industriali o commerciali, e io le credo. E perciò ritengo che quei 54 milioni che lo scorso anno ha depositato in 3 diverse banche poiché non risultano prelevati da precedenti depositi presso altre banche, rappresentino esclusivamente il reddito delle sue terre. 1 milione per ettaro, dunque. E le confesso che un perito agrario da me consultato è rimasto strabiliato, perché secondo il suo parere non c'è terra in questa zona che possa dare un reddito netto superiore alle 100.000 lire per ettaro. Lei pensa che si sbagli? Non si sbaglia, disse Don Mariano, incupito. Dunque siamo partiti sul piede sbagliato. Torniamo indietro. Da quali fonti provengono i suoi redditi? Non torniamo indietro per niente. Io i soldi miei li muovo come voglio. Posso solo precisare che non sempre li tengo in banca. A volte ne faccio prestiti ad amici, senza cambiali, in fiducia. E l'anno scorso tutti i soldi che avevo fuori mi sono ritornati e ho fatto quei depositi nelle banche, dove c'erano già altri depositi, a suo nome e a nome di sua figlia. Un padre ha il dovere di pensare all'avvenire dei figli. È più che giusto. E lei ha assicurato a sua figlia un avvenire di ricchezza. Ma non so se sua figlia riuscirebbe a giustificare quel che lei ha fatto per assicurargliela, questa ricchezza. So che per ora si trova in un collegio di Losanna, costosissimo, famoso. Immagino lei se la ritroverà davanti molto cambiata, ingentilita, pietosa verso tutto ciò che lei disprezza, rispettosa verso tutto ciò che lei non rispetta. Lasci stare mia figlia, disse Don Mariano contraendosi in una dolorosa fitta di rabbia, e poi rilassandosi, come a rassicurare se stesso, disse: mia figlia è come me. Come lei? Mi auguro di no. E d'altra parte lei sta facendo di tutto perché sua figlia non sia come lei, perché sia diversa. E quando non riconoscerà più sua figlia, tanto sarà diversa, lei avrà in qualche modo pagato lo scotto di una ricchezza costruita con la violenza e con la frode. Lei mi sta facendo la predica. Ha ragione, lei il predicatore va a sentirlo in chiesa e qui vuol trovare lo sbirro. Ha ragione. Parliamo dunque di sua figlia per quel che le costa in denaro. Per il denaro che lei accumula in suo nome. Molto, moltissimo denaro. Di provenienza, diciamo, incerta. Guardi, queste sono le copie fotografiche delle schede intestate a suo nome e a nome di sua figlia che si trovano presso le banche. Come vede, abbiamo cercato non solo nelle agenzie del suo paese, ci siamo spinti fino a Palermo. Molto, moltissimo denaro. Lei può spiegarne la provenienza? E lei? Domandò impassibile Don Mariano. Tenterò. Perché nel denaro che lei accumula così misteriosamente bisogna cercare le ragioni dei delitti sui quali sto indagando. E queste ragioni bisogna in qualche modo illuminare negli atti in cui la imputerò di mandato per omicidio. Tenterò. Ma lei una spiegazione al fisco deve pur darla. Agli uffici fiscali noi ora trasmettiamo questi dati. Don Mariano fece un gesto di noncuranza. Abbiamo anche copie della sua denuncia dei redditi e della cartella di esattoria. Lei ha denunciato un reddito uguale al mio, intervenne il brigadiere. E paga di tasse un po' meno di me, disse ancora il brigadiere. Vede? Disse il capitano. Ci sono molte cose da chiarire che lei deve spiegare. Di nuovo Don Mariano fece un gesto di noncuranza. Questo è il punto, pensò il capitano, su cui bisognerebbe far leva. È inutile tentare di incastrare nel penale un uomo come costui. Non ci saranno mai prove sufficienti. Il silenzio degli onesti e dei disonesti lo proteggerà sempre. Ed è inutile, oltre che pericoloso, vagheggiare una sospensione di diritti costituzionali. Un nuovo Mori diventerebbe subito strumento politico elettoralistico, braccio non del regime, ma di una fazione del regime. La fazione Mancuso, Livigni o la fazione Sciortino Caruso. Qui bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell'inadempienza fiscale, come in America, ma non soltanto le persone come Mariano Arena e non soltanto qui in Sicilia. Bisognerebbe di colpo piombare sulle banche. mettere mani esperte nella contabilità, generalmente a doppio fondo, delle grandi e delle piccole aziende, revisionare i catasti. E tutte quelle volpi, vecchie e nuove, che stanno a sprecare il loro fiuto dietro le idee politiche o le tendenze o gli incontri dei membri più inquieti di quella grande famiglia che è il regime, e dietro i vicini di casa della famiglia e dietro i nemici della famiglia, sarebbe meglio si mettessero ad annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie, le mogli, le amanti di certi funzionari, e confrontare quei segni di ricchezza agli stipendi e tirarne il giusto senso. Soltanto così ad uomini come Don Mariano comincerebbe a mancare il terreno sotto i piedi. In ogni altro paese del mondo un'evasione fiscale come quella che sto constatando sarebbe duramente punita. Qui Don Mariano se ne ride, sa che non gli ci vorrà molto ad imbrogliare le carte. Gli uffici fiscali, a quanto vedo, non sono la sua preoccupazione. Non me preoccupo mai di niente, disse Don Mariano. E come mai? Sono un ignorante, ma due o tre cose che so me bastano. La prima è che sotto il naso abbiamo la bocca, per mangiare più che per parlare. Ho la bocca anch'io sotto il naso, disse il capitano, ma le assicuro che mangio soltanto quello che voi siciliani chiamate il pane del governo. Lo so, ma lei è un uomo. E il brigadiere? Domandò ironicamente il capitano indicando il brigadiere D'Antona. Non lo so, disse Don Mariano squadrando il brigadiere con molesta per il brigadiere attenzione. Io, proseguì Don Mariano, ho una certa pratica del mondo. È quella che diciamo l'umanità e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento. La divido in cinque categorie: gli uomini, i mezzi uomini, gli ominicchi, i con rispetto parlando pigliangulo e i quacquaraquà. Pochissimi gli uomini, i mezzuomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezzi uomini, e invece no, scende ancora più giù, agli ominicchi, che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi, e ancora più giù i pigliangulo, che vanno diventando un esercito, e infine i quacquaraquà, che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quelle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo. Anche lei, disse il capitano con una certa emozione. E nel disagio che subito sentì di quel saluto delle armi scambiato con un capo mafia, a giustificazione pensò di aver stretto le mani nel clamore di una festa della nazione e come rappresentanti della nazione circonfusi di trombe e bandiere al ministro Mancuso e all'onorevole Livigni, sui quali Don Mariano aveva davvero il vantaggio di essere un uomo. Al di là della morale e della legge, al di là della pietà, era una massa irredenta di energia umana, una massa di solitudine, una cieca e tragica volontà. E come un cieco ricostruisce nella mente, oscuro e informe, il mondo degli oggetti, così Don Mariano ricostruiva il mondo dei sentimenti, delle leggi, dei rapporti umani. E quale altra nozione poteva avere del mondo, se intorno a lui la voce del diritto era sempre stata soffocata dalla forza e il vento degli avvenimenti aveva soltanto cangiato il colore delle parole su una realtà immobile e putrida? «Perché sono un uomo e non un mezz'uomo o addirittura un quacquaraquà?» domandò con esasperata durezza. «Perché», disse Don Mariano, «da questo posto dove lei si trova è facile mettere il piede sulla faccia di un uomo, e lei invece ha rispetto. Da persone che stanno dove sta lei, dove sta il brigadiere, molti anni addietro io ho avuto offesa peggiore della morte. Un ufficiale come lei mi ha schiaffeggiato, e giù nelle camere di sicurezza un maresciallo mi appoggiava la brace del suo sigaro alla pianta dei piedi e rideva. E io dico: si può dormire quando si è stati offesi così? Io dunque non la offendo? No, lei è un uomo, affermò ancora Don Mariano. E le pare cosa da uomo ammazzare o fare ammazzare un altro uomo? Io non ho mai fatto niente di simile. Ma se lei mi domanda a passatempo per discorrere di cose della vita, se è giusto togliere la vita a un uomo, io dico, prima bisogna vedere se è un uomo. Di Bella era un uomo? Era un guacquaraquà, disse con disprezzo Don Mariano. Si era lasciato andare, e le parole non sono come i cani cui si può fischiare a richiamarli. E lei aveva particolari motivi per classificarlo così? Nessun motivo. Lo conoscevo appena. Eppure il suo giudizio è esatto, e ci devono essere gli elementi di base. Forse lei sapeva che era una spia, un confidente dei carabinieri. Non me ne curavo. Ma lo sapeva? Lo sapeva tutto il paese. Le nostre segrete fonti di informazioni, disse con ironia il capitano voltandosi a guardare il brigadiere e a Don Mariano. E forse Di Bella rendeva qualche servizio agli amici passando a noi determinate confidenze. Lei che ne dice? Non lo so. Ma almeno per una volta, una decina di giorni addietro, Di Bella si è lasciato sfuggire un'informazione giusta. In questo ufficio, seduto dove è seduto lei. Lei come ha fatto a saperlo? Non l'ho saputo. E a saperlo non ne avrei avuto né caldo né freddo. Forse il Di Bella è venuto da lei a confessare l'errore, agitato dal rimorso. Era persona da sentire paura, non da sentire rimorso. E non c'era ragione perché venisse da me. E lei? È uomo da sentire rimorso? Né rimorso né paura, mai. Certi suoi amici dicono che lei è religiosissimo. Vado in chiesa, mando danaro agli orfanotrofi. Crede che basti? Certo che basta. La chiesa è grande perché ognuno ci sta dentro a modo proprio. Non ha mai letto il Vangelo? Lo sento leggere ogni domenica. Che gliene pare? Belle parole. La chiesa è tutta una bellezza. Per lei vedo... La bellezza non ha niente a che fare con la verità. La verità è nel fondo di un pozzo. Lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna. Ma se si butta giù, non c'è più né sole né luna. C'è la verità. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Realizzazione tecnica di Ciro Lutricuso, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.